America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York. Mario Platero, avete sentito da Simone Spezia, sei musulmani uccisi in preghiera in una moschea a Quebec City. Il mondo si avvita, possibile un passo indietro? Beh, certamente auspicabile. Sentiamo dall'America. Crowds danced and chanted in the streets of Brooklyn after a US federal judge decreed an emergency halt to part of President Donald Trump's executive order. È difficile immaginare Donald Trump sulla difensiva, eppure è bastata la decisione di bloccare su base nazionale l'ordine esecutivo del presidente americano sui visti per l'immigrazione da parte di un giudice federale, Ann Donnelly, della corte distrettuale di Brooklyn. Ecco, vi dicevo, è bastata questa decisione per costringere la Casa Bianca più determinata e aggressiva degli ultimi decenni a fare un passo indietro. Sentiamo. This is not a Muslim ban, John. About 109 of those people were retained for further questioning, and my suspicion is those people will move on as long as they're not dangerous. Ecco qui Reince Priebus che parla, Face the Nation alla CBS ieri mattina, dice: non si tratta di un bando sui musulmani, non include i possessori di una green card, vogliamo solo fare controlli maggiori in questi 7 paesi che hanno più alte probabilità di infiltrazioni terroristiche, ma la maggior parte delle 109 persone fermate sono già state rilasciate. Ecco, non era proprio così, perché poi oggi ne sono state fermate molte altre, ma prendiamo per buona le parole di Priebus. In realtà l'ordine iniziale era tempo indeterminato per l'ingresso dei rifugiati siriani, parliamo di 60.000 persone, 120 giorni per l'arrivo di rifugiati in generale e 90 giorni per l'arrivo di persone che vivono nei 7 paesi, tra virgolette, incriminati. L'ordine di Trump aveva bloccato visti, permessi di soggiorno per turisti, famiglie, uomini d'affari. È questo che ha sottolineato la Donnelly nella sua sentenza. Le persone arrestate, fermate, rispedite a caso, bloccate alla partenza, erano già state controllate, autorizzate, approvate per un visto di soggiorno. Nonostante Priebus minimizzi, aveva persino bloccato chi aveva la residenza, la mitica carta verde anticamera della cittadinanza. Ora John Kelly, capo della sicurezza interna, ha revocato anche quella parte dell'ordine che colpiva i detentori della carta verde. Ecco, Trump è intervenuto direttamente per difendere la sua posizione con un comunicato in cui ha spiegato che l'America è orgogliosamente una nazione di immigrati, che continuerà sì a mostrare compassione verso coloro che fuggono dalle oppressioni, ma proteggendo allo stesso tempo i cittadini e i confini statunitensi. Trump ha tentato di giustificare la sua mossa chiamando in causa il suo predecessore Barack Obama e dice: aveva vietato il rilascio di visti per i cittadini iracheni per 6 mesi nel 2011 e su 40 paesi islamici ne abbiamo scelti soltanto 7. Qui non siamo contro l'Islam. E tra l'altro, dice Trump, questi 7 paesi sono gli stessi identificati già dall'amministrazione Obama come focolai di terrorismo. Dobbiamo proteggerci dal terrorismo. Ecco, in realtà una gran parte dell'ordine continuerà, per quel che ci dice Trump, ad essere applicata, cosa che ovviamente non è piaciuta. Ecco, questa è Dallas, avete sentito le urla della folla che accoglie alcuni degli immigrati liberati, ma le proteste ieri erano un po' dappertutto in America, soprattutto al Kennedy, a New York. Ecco, quello che sta capitando non piace, perché non c'era un'emergenza, un attacco terroristico, avvertimenti dell'intelligence per un pericolo in arrivo, c'era solo una promessa elettorale costruita da Trump sulla base di una legge del 52, però abrogata, poi di fatto superata comunque nel 65, che dava ai presidenti americani poteri per sospendere l'ingresso in America per intere classi di stranieri se queste possono portare pericoli per la nazione. A US service member has died from wounds suffered during a raid against Al-Qaeda in Yemen. 3 other service members were also wounded. Trump aveva anche promesso linea dura contro l'ISIS, contro Al-Qaeda, contro i terroristi e dunque ha dato il suo primo ordine per un attacco nello Yemen, un attacco di terra di un comando invece che un normale attacco di un drone come ha sempre fatto l'amministrazione Obama. L'obiettivo era di prendere materiale da un presidio importante di Al-Qaeda nello Yemen. Trump ha rivendicato il successo della missione, però un giovane delle forze speciali è rimasto ucciso. Un mezzo aereo che doveva riportare le truppe indietro è stato abbattuto, ci sono stati altri 4 feriti, gli altri soldati sono rientrati con altri mezzi e hanno ucciso 14 militanti di Al-Qaeda e hanno recuperato, dice la Casa Bianca, documentazione molto importante. Insomma, queste due cose ci dicono che per Donald Trump è arrivato il cosiddetto reality check, cioè lo scontro con la realtà delle cose, perché non necessariamente una promessa può essere tradotta in un'azione pulita, come nel caso del comando, ma è la vicenda dei visti jihadisti, che ha rappresentato per Trump la prima sconfitta bruciante, la prima verifica di quanto diverso sia essere un imprenditore a capo di un gruppo immobiliare i cui ordini sono rispettati ed eseguiti all'istante, dall'essere alla guida di una democrazia che poggia sulla separazione dei poteri, soprattutto quando certe leggerezze fattuali possono essere facilmente difese in un contesto mediatico dominato dai social, ma in un tribunale poi contano davvero solo i fatti dimostrabili e molto concreti. Proprio quello che è successo col giudice Donnelly al tribunale di Brooklyn sabato notte. Per una volta i fatti hanno prevalso. Ci sarebbero migliaia di approfondimenti e idee da questa costa atlantica che vive momenti di tensione, ma apre come sempre una nuova frontiera inesplorata. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @ Mario Platero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, vista l'atmosfera, limiti agli accessi all'America, visto quel che potrebbe succedere anche a famiglie con immigrati illegali qui negli Stati Uniti che rischiano la separazione, non posso che dedicare la canzone di oggi a Woody Guthrie, Deportee. Deportati. Sentite le parole, bellissime. Crops are all in. Peaches are rotting, the oranges are piled in their creosote dumps. They're flying you back to the Mexico border to pay all your money to raid back again. Goodbye to my one, goodbye Rosalita. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.